via. L'affitto è purtroppo. Speriamo, là lì devo aspettare. Devo pagare questi oltre 400 euro, circa 400 euro, e aspettare, non so, 2-3 settimane per avere la linea. E come sta andando adesso? Ecco. vabbè. Cacca, io già me l'ha fatto Luigi. Ti metterai tutto a posto, dai. Ti conviene metterti tutto a posto, se vuoi. Una buona parte. Voglio pensare in domani. No, è per mio, dai. Ecco, hai preso il pennino? Sì, ma non si va nulla, lui. Vai, non va, si disconnette. Che pennino è? Dimmi. Dai. Guarda, io c'ho... abbiamo quello... chissà quanto fare. Abbiamo quello della Wind. Paghiamo poco, poco. Allora io i primi 5 mesi 10 euro a mezza, poi 25 mi sembra, faccio, dopo riferisco la questa promozione. Ma quanto paghi? 10 euro. Quante ore? 100 ore. È sempre meglio della vola. La vola cosa non ti fa pagare? 6 euro. E quella quindi 100 ore va per 15 euro. Però pompa è quella grande. E qua funziona che cosa mala brutto. Va bene, no? non possiamo dirle niente. Comunque la migliore è la 3. 3 quanto prende? Quella è 7,2 megabyte. Ti dà di... Di cosa? Di 7 mega, 7,2 megabyte. E ce ne vediamo bene. C'è copertura, come tutte le penne, se fai copertura UNTS c'è andata così, ma se non fai copertura tutti i dini, e il problema è come, sono tutte cavolate quelle che dicono, così che funzionano queste cose, dove c'è il servizio buono ti dà quella potenza, ma se non c'è il servizio buono accennai tu. Guardi che compite. Due, tre, prova. Sono il 26 qua. E perché che mi arrivi? meno guai. No, per più, vedi, aspetta, vediamo un po' il baracchinotto, sì. Aspetta, fa passaggio, vai. Dovrebbe prova. Il baracchino, se non vuoi... non vuoi dirci, vai, non vuoi quasi non vuoi dirci. Calma, va bene. Ho 550. L'Intel 550 Power. Ma va bene. Ma no, guarda, non li posso di nuda gli apparecchi, no? L'apparecchio... Sono contento io. Sono molto contento di questo apparecchio perché è riuscito bene. E io, no, va bene. Io, cazzo, che palle. Giappa. Perché l'altra volta che fu un verde civile. Non gli ha fatto niente perché c'era anche il baracchino acceso, non sta accendere, madonna, è stato in protezione. Vabbè, che hai visto? So, come questi hanno la protezione, hanno, non te lo può bruciare l'apparecchio, se è fuggibile. Vanno subito in protezione se è invertibile. Deve stare attento, No, a me è capitato, però è saltato il fusibile. Perché da basso l'ha capito di... era piccolo come fusibile. Insomma, ti vale più grande. Non ce la fai, fai danno. Mi diceva anche lui. Ma questo invece no, questo è entrato anche di protezione. Me ne sono accorto subito, però ha cominciato a fare cose strane. È entrato in protezione, lo aspetto subito. Veglia, e la mia sta attenti. Sento a te, ma non va a disturbarmi, è diverso da altri apparecchi che io attacco e mi rompo le scatole, se mi tengo un bene. Questo no, questo pure se tu riesci a sentire, pure se tu lo senti, però quando parla la persona la senti chiara, è diverso. Se è lontano, cioè appena più lontano noi tendiamo a sciuro in occhio. Vabbè, diciamo che colpi non le prendi perché... nuovo ordine, andiamo all'ospedale. Vediamo un po' se lo fa qua. No. Se lo fa qua, vediamo un po'. Stavo dicendo che non è in ricezione, però baracchini ci sono, io ce l'ho buono, allora, papà sono già su internet, l'NB40 tra Intel. Guarda, ti posso garantire non prendeva colpi, era tutto sordo, bello, lui è comunque un vintuto a dare la saporecchio, ma pentito veramente. Questi che stiamo facendo adesso, tu prendi quella là 40 BSX, c'è la stessa tecnologia di questo già, anche quello che c'è a Natalino, sono tutti di questa tecnologia, non ne pigliano i coppi, no? Metti quello normale, a vedere cosa succede, lo fa pazienti, figli. Esatto, mi torna a no, c'è un però, l'unica cosa, come tutti di questi che stanno, non pigliano i colpi, sono selettivi, eccetera, eccetera, però c'hanno una cosa, che quando li metti in macchina un pochettino si sente il rumore del motore. Beh, no, questo che c'ho io, no? Arriva con un bassogno. Allora, ho provato la macchina di Franco una volta. Niente, non sente niente. Ma lo senti un pochino, non è che ti dia fastidio per tanto. Solo quello c'ha per. Però tutto l'altro resto non posso dirle niente. Cappa. No, esce bene, Ambuglia. Esce bene. Sono arrivati, ma il mio è presto. Infatti mi ha ancora 5 minuti, addirittura poi già rubi tutti gli occhi. Sta con l'antenna. E se ne parla domani sera. Domani pomeriggio, no? Non rientro. Ho scoperto il mistero, te lo ricordi che diceva cosa? Natalino diceva sempre attacchi sul microfono, bombano anda, eccetera, eccetera. E poi ho scoperto che cosa era. Sono completamente uguali, solo che uno è dinamico, l'altro è l'esistente, c'è il solo. E questo tipo qua che ho io è solo esclusivamente per il 550. L'altro sono dinamici, quelli che fa. L'altro è dinamico. Cappa. No, vabbè. Aspetta. Si rulla. No, c'è un ragazzino, so qua, è crevuto di occhi. 15 Juan Barros, con una formatore. Poi io utilizzo sempre quello set di Ampere IBC. Questo qua è 25 Ampere. 25 a picco 30, no? 7 ampere, no, fa di picco. Cioè, 25 è 30 di picco. E va bene. Originale. Sono più un po' di pagine. Io sono spostato e faccio la chiamata. E poi spengo tutto e mi mando tutto tanto ad uno a tutti, domani. È un casino. Poi ce la fanno anche, con tua voce. Capisco che ci vogliono i ferri per lavorare, ma porta un ferro in più. Cosa che mi fai? Questo prodotto vai, porta le due, no, tutto a prezzo la riga. Ah, il governo non usa uno, mi dà 25 litri, è un prodotto che si mette in terra, no, per far attaccare il cemento, tipo un coso, un aggrappante, come si fa la pittura anche. Ah, il ragazzo 6 milioni non ha rigato, e non ha più bisogno. Ma la sotto, già pesano già. Ma l'importante è sempre all'ira, penso che pure questa settimana ce l'ha fatta, no? Che cosa tu, ho capito, scusa? All'ira che ci abbia a testa. Mina? Che abbia a testa? E me? Ce l'ha fatta a finire. Lumina Rossi. A Rossi? Che c'è Valentino Rossi, Gesù Maria. Sta sorpassando. Che gara c'è? Fa. Era un padre, me. Cappa. Vaga. fai tu il tuo gran premio e vediamo chi vince. E poi mi si cocco, dai. Buonanotte Luca. Ciao. Ma non fa niente, ciao.